Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. In Italia siamo bravissimi fin dai tempi del Medioevo a far pagare ad ogni passaggio una tassa, quando si passavano i ponti, i cancelli, le mura delle città. Per ogni passaggio c'è una tassa. È un'eredità che ci portiamo appunto da secoli e che attualmente è in vigore tra gli altri settori anche su quello dei rifiuti. La tassa che paghiamo per l'asporto rifiuti ha un'ulteriore imposta sopra, che è l'IVA. Si dice che andrebbe rimborsata quest'IVA, ovviamente le aziende non sono d'accordo, c'è una discussione in atto, anche alcune cause pendenti per avere il rimborso dell'IVA pagata sulla TIA. Di questo parliamo con l'avvocato Gioia Barbato dell'ufficio legale dell'Adico, ben trovata. Grazie Mirko, buongiorno a tutti. Allora, tasse su tasse, una sopra l'altra, non si capisce, non si riesce a capire chi ha ragione. Esatto, sì, oggi infatti parliamo di TIA, che è la tariffa di igiene ambientale. A dire la verità, noi di Adico già dal lontano 2009 che portiamo avanti questa campagna di informazione legata appunto al rimborso dell'IVA pagata sulla TIA. Infatti è opportuno precisare e spiegare a tutti gli ascoltatori che l'IVA che noi paghiamo sulla TIA è assolutamente illegittima, come ha più volte stabilito la giurisprudenza, sia la giurisprudenza di legittimità, quindi la Corte di Cassazione, sia addirittura la Corte Costituzionale. Infatti è opportuno precisare che la TIA è una tassa e come tale non deve avere il supplemento dell'IVA e come tale infatti la giurisprudenza ha più volte stabilito la sua illegittimità. Noi di Adico abbiamo già intrapreso diverse azioni anche giudiziali volte al rimborso di quanto pagato illegittimamente dall'utente, anche se molte volte portare avanti questa battaglia diventa antieconomico e purtroppo a volte controproducente, anche a fronte di quello che dovrebbe essere il rimborso dell'importo pagato in eccesso, che per famiglia ammonta a poche centinaia di euro, infatti siamo sulla soglia di 300-400 euro. Questo appunto come rimborso totale degli ultimi anni, cioè da quando è stata applicata la TIA. Voi dite sì, abbiamo ragione, però non conviene avere ragione, non conviene proprio nel totale. Sì, esatto, diventa antieconomico. Allora, o ci troviamo dinanzi ad un gruppo di persone che intendono intraprendere questo tipo di azione per principio e come tali sono anche disposti a rischiare e ad investire in questa causa, o altrimenti chi intende farlo solamente per un mero recupero e quindi solamente per una questione economica diventa sconveniente, e spiego subito perché. Allora, noi dell'ufficio legale dell'Adico con alcuni soci abbiamo intrapreso questo tipo di azione dinanzi al giudice di pace di Mestre. Abbiamo agito direttamente con un ricorso per decreto ingiuntivo, che è uno strumento giuridico che ci permette, a fronte di un credito certo, liquido ed esigibile, come in questo caso il supplemento pagato in eccesso sulla TIA, di ottenere un decreto ingiuntivo, quindi un'ingiunzione di pagamento nei confronti del gestore, in questo caso era Veritas. Ecco, Veritas però ha la possibilità, che gli viene concessa dal nostro codice, di opporsi a questa ingiunzione entro 40 giorni, e Veritas, nonostante abbia in questo caso, non dico torto, però comunque in questo caso abbia tutta la giurisprudenza di legittimità a suo sfavore, e si è comunque opposta solamente o per fini dilatori, penso io, o addirittura per cercare di portare avanti questo suo principio, che insomma, che è quello di poter applicare l'IVA su una tassa. L'IVA che comunque non viene incassata dal gestore, ma poi va allo Stato, giusto? Esatto, ma infatti penso che comunque Veritas o il gestore di turno abbiano poi delle determinate direttive interne, probabilmente imposte dall'alto, quindi probabilmente dallo Stato, o comunque abbiano delle circolari interne che le legittimi ad effettuare questa applicazione, seppur illegittima. E quindi, a fronte di queste circolari che gli vengono imposte dallo Stato o comunque da un organo sovraordinato, il loro operato è assolutamente legittimo, ed eventualmente in caso di rimborso Veritas avrà il diritto di farsi manlevare poi da quell'organo superiore che ha imposto quella direttiva. Ecco, se anche dovessimo ricevere, insomma, ciascuno, anche perché non è che lo può ricevere, se la riceve uno la dovrebbero ricevere tutti, appunto la restituzione dell'IVA pagata in più, è così? Sì, in realtà sì. Allora, in linea di massima, quando parliamo di diritto civile, come in questo caso, il fatto di ottenere una pronuncia positiva, questa pronuncia positiva dovrebbe avere un'efficacia estensiva. Ok, però effettivamente credo sia molto difficile che il fatto che un cittadino veneziano ottenga una sentenza positiva qui in Veneto, questa possa avere un'efficacia a livello nazionale. Questo lo trovo molto difficile, infatti dovrebbe, stiamo valutando anche di intraprendere un'eventuale azione collettiva, magari che possa avere un richiamo anche a livello nazionale, quindi per fare un tipo di azione magari anche, non so, alla Corte Costituzionale o alla Corte di Cassazione, che possa avere anche una, insomma, un eco maggiore, ecco, rispetto a quello prettamente legato al territorio veneziano. Certo, so che ci sono già delle class action a livello nazionale, così dove ognuno può aderire in modo che il corpo che protesta sia numericamente più compatto rispetto alle aziende. Poi tra l'altro c'è anche la questione, come dicevi tu, hai citato Veritas per Venezia, ma ogni territorio ha il suo consorzio che gestisce la raccolta rifiuti, non c'è un unico interlocutore, cioè non c'è un'unica azienda nazionale che raccoglie rifiuti, ogni comune, ogni territorio ha il suo, anche questo complica forse un po' le cose. Sì, certo, purtroppo anche questo, anche se poi però il modo di operare è analogo per tutti i gestori, perché come anticipavo prima, secondo me è proprio una direttiva che viene imposta ai gestori da un organo statale e come tale anche loro effettivamente non hanno colpa, se proprio vogliamo precisare, effettivamente loro non fanno altro che applicare automaticamente quello che gli viene imposto dall'alto e come tale dal canto loro hanno anche loro la, cioè sono anche loro legittimati a difendersi in giudizio proprio a fronte di questa direttiva interna, perché anche loro non operano con discrezionalità, ovviamente questi gestori operano, ma operano in maniera automatica con direttive ben precise. E quindi alla fine il consumatore si stanca o nemmeno ci prova? Sì, si stanca, esatto, si stanca, ma anche perché giustamente noi dell'ufficio legale Adico abbiamo, cioè, mettiamo sempre al corrente il nostro, cioè, il nostro socio di tutte quelle che potrebbero essere le spese a cui va incontro, quindi a parte i costi iniziali per attivare il procedimento, che come anticipavamo prima, nel caso in cui ci sia una class action questi costi vengono poi in un qualche modo ridotti o comunque sono ridimensionati, ma poi è opportuno precisare che è vero che dal canto nostro abbiamo ragione perché abbiamo la giurisprudenza di legittimità che ci sostiene, però c'è anche, è sempre una giurisprudenza, quindi non è una norma codicistica che ci impone, che ci conferma che la tassa, che l'IVA sulla TIA non è legittima, è un'interpretazione che dà un giudice, quindi abbiamo solo questo parere positivo che sostiene la nostra tesi, quindi anche il giudice Tipace di Mestre o il Tribunale di Venezia o di altra città può comunque sostenere, essendo anche essa a sua volta un giudice, che quella tassa è invece legittima e quindi l'utente rischia di incorrere in spese processuali in caso di soccombenza, quindi in caso di perdita di ricorso, e poi tutte le spese che sono quelle di registrazione della sentenza, quindi è opportuno informare bene un socio prima di accostarsi a questo tipo di azione, perché in caso di esito negativo si incorre in spese notevoli. Insomma, si ha ragione, ma non si può avere soddisfazione completa. Purtroppo in questo caso sì, è così. Si ha ragione, però l'azione tante volte diventa un po' antieconomica, quindi o una persona è disposta a rischiare, oppure è nostro dovere metterlo in allerta di tutti quelli che possono essere i potenziali costi che si verranno a sostenere nel tempo. E con questa punta di amarezza, allora, noi ringraziamo l'avvocato Gioia Barbato dell'ufficio legale dell'Adico, alla prossima. Grazie a te, saluti a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.